Quando ero ragazzo stavo sul terrazzo e pensavo sempre a vincere milioni in gettoni d'oro, questa è la felicità. Poi mi sono svegliato tutto emozionato, ho trovato un modo per ricevere un salario multimilionario senza lavorare. Allora sono rimasto chiuso dentro al cesso ad ascoltare quel che c'è dentro l'intestino di qualche cretino, anche un po' demodé. Basta un comizio, arriva il vitalizio, ma che bella vita è. Sotto i riflettori mando due bacioni e saluto i miei lacchè. Col cuore immacolato vengo convocato da un terrone affinché si formi un governo senza alcun contegno ed un ministero per me. Ma sono disperato, forse ho esagerato, tutti vogliono da me quello che ho promesso all'ultimo congresso, meglio uscirne fuori perché. Se alle prossime elezioni senti la nostalgia, se la benzina costa cara, non è colpa mia. Un'estate al mare, voglia di cantare, come una cicala che fa cocoda. Interessante, ma non mi interessa.